Europa 24. Un saluto anche da Gigi Donelli. Oggi partiamo dal bilancio comunitario, in particolare si sblocca la revisione di midterm del bilancio pluriennale europeo. Forse lo ricorderete, una questione molto italiana, visto che era stato il governo Renzi a bloccarlo. Sentiamo tutto nel servizio di Beda Romano. Dopo un tira e molla durato 4 mesi, il governo italiano ha tolto oggi la riserva con la quale ha, nei fatti, bloccato a livello europeo la revisione di metà periodo del bilancio comunitario 2014-2020. In novembre l'allora governo Renzi aveva posto il veto, sottolineando la necessità di rivedere le priorità finanziarie, dirigendo maggiore denaro verso la promozione della crescita economica. A dire il vero, i Paesi membri si erano già accordati in questo senso, ma per l'Italia le misure non apparivano sufficienti. Osservatori, qui a Bruxelles ma anche a Roma, avevano attribuito la decisione italiana alla scelta del governo Renzi di far sentire la sua voce a Bruxelles, mentre l'Italia era in piena campagna elettorale in vista del referendum sulla riforma costituzionale del Senato. A molti la scelta italiana era sembrata un modo per convincere gli elettori incerti a votare a favore della riforma voluta dal governo. Alla luce dell'esito elettorale, il tentativo fallì. Con la decisione di oggi, i 28 hanno potuto dare il loro benestare definitivo alla revisione del bilancio comunitario. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. L'immigrazione è il cavallo di Troia del terrorismo, così il premier ungherese Viktor Orban a una cerimonia di giuramento delle guardie di frontiera. Insomma, un tema che ancora divide i 28 o 27 che siano. Sentiamo gli aggiornamenti. Controlli sistematici su database per tutti i cittadini, anche quelli europei, in ingresso e in uscita dalle frontiere esterne. È quanto prevede il regolamento adottato dal Consiglio europeo che modifica il codice Schengen. L'obiettivo è quello di rafforzare la lotta al terrorismo e in particolare al fenomeno dei foreign fighter di ritorno da Iraq e Siria, ha spiegato Carmelo Abela, ministro degli affari interni di Malta, paese che detiene la presidenza di turno del Consiglio UE. Consiglio e Parlamento europeo dovranno ora firmare il provvedimento che entrerà in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea. Intanto una sentenza della Corte UE, definitiva e destinata a fare giurisprudenza, stabilisce che gli Stati membri non sono tenuti, in forza del diritto dell'Unione, a concedere un visto umanitario ai profughi richiedenti asilo, ma restano liberi di farlo sulla base del rispettivo diritto nazionale. Nelle stesse ore, la notizia del via libera da parte del Parlamento ungherese di un progetto di legge che prevede la detenzione per tutti i richiedenti asilo. Questi ultimi, secondo la norma, dovranno tutti essere portati in campi container alla frontiera meridionale del paese. L'Ungheria può contare solo su se stessa per proteggersi, ha affermato il premier ungherese Viktor Orban alla cerimonia di giuramento di un gruppo di guardia frontiere. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora parliamo di spazio. Nono successo per Vega, lanciatore europeo, un lanciatore europeo peraltro progettato e sviluppato in Italia da Avio e lanciato nella notte a bordo appunto del razzo Vega, il satellite Sentinel-B, una nuova sentinella del pianeta, la quinta del programma Copernicus. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Unité, top, allumage P80 e décollage. La nuova sentinella spaziale europea, ideata per monitorare lo stato di salute delle aree verdi del pianeta, è in orbita. Partito questa notte a bordo di un razzo Vega, il satellite Sentinel-2B è il quinto tassello della costellazione di satelliti del programma Copernicus, sviluppato da Agenzia Spaziale Europea e Commissione Europea. Da una quota di 786 chilometri monitorerà costantemente la superficie del pianeta grazie a una potente fotocamera capace di fornire immagini con un dettaglio senza precedenti. I dati in arrivo da Sentinel-2B e dal satellite gemello Sentinel-2A lanciato nel giugno del 2015, combinati con quelli delle altre sentinelle, forniranno informazioni sfruttabili in moltissimi settori. Una miniera d'oro per lo sviluppo della cosiddetta Space Economy. Una mole di dati superiore a quella gestita da Google e Amazon, ha spiegato Philippe Brunet, responsabile del programma Copernicus per l'Unione Europea. In termini di potenziale sviluppo economico per le aziende, hanno lo stesso valore di materie prime come il carbone o l'acciaio. Per Vega, il lanciatore europeo progettato, sviluppato e realizzato in Italia, si è trattato della prima missione del 2017, la nona in totale. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora a tutti convocati come sempre, Europa 24 torna domani. Un saluto. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.